La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 22 maggio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Secondo il nostro sistema canonico, quando qualcosa non serve più, si deve buttare. Però quando buttiamo nel cestino qualcosa, volenti o nolenti, quel qualcosa che abbiamo buttato si trasforma in un qualcos'altro. Dette parole povere, qualche giorno fa qui a Bologna c'è stato un convegno sulla gestione integrata dei rifiuti e noi proprio di questo ciclo cercheremo di parlare in questa puntata insieme al professor Luciano Morselli, professore ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso l'Università di Bologna. Buongiorno professor Morselli. Buongiorno a lei. Professor Morselli, come già anticipato nel fuori onda qui a Calciofotone, cominciamo con 100 parole introduttive. In 100 parole le chiedo, come si potrebbe definire effettivamente un rifiuto? Ma un rifiuto possiamo definirlo come un bene dismesso, che però va bene dismesso, che ha finito una parte della sua funzione prioritaria, ma che poi non è detto che questo bene di consumo possa essere anche riusato. Professor Morselli, è stato rapidissimo, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di analizzare la prima fase dello smaltimento, e cioè effettivamente il riciclo. Cercheremo quindi di capire se i materiali sono tutti uguali fra di loro, come si differenziano e tante altre cose. Mentre nella seconda parte cercheremo di analizzare la seconda fase e quindi le tecniche di smaltimento e alcune ovviamente considerazioni finali. Musica, poi ci torno in studio e poi di nuovo a Cacciafotone. Oh, what I plan to do. I know it's strange, believe me, but that's my attitude. Bentornati in studio cari radioascoltatori qui a Cacciafotone, raggiungibile dal sito www.cacciafotone.it, e quest'oggi stiamo provando a parlare del cosiddetto ciclo integrato dei rifiuti insieme al professor Luciano Morselli, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso l'Università di Bologna. Professor Morselli, all'inizio della trasmissione, nelle 100 parole iniziali, lei ha provato a descrivere, o meglio a definire, quello che noi intendiamo per rifiuto. Per smaltire però il rifiuto, noi abbiamo bisogno di quello che nelle scienze ambientali si chiama il ciclo integrato dei rifiuti. Ecco, se lei lo dovesse spiegare a un bambino di 5 anni, come lo spiegherebbe? Beh, poi sono imprese per un bambino di 5 anni, comunque ci provo. Un ciclo integrato dei rifiuti è quello che considera il rifiuto quando viene smesso, quello che scartiamo dalle nostre case, e quindi è un percorso attraverso il quale, con l'uso di tecnologie per la raccolta delle strade, per la raccolta in modo differenziato e poi dopo per il trattamento delle tecnologie di trattamento, quindi per recuperare materiali ed energia e dopo ottenere dei residui che siano compatibili per la discarica. Quindi considera tutte le tecnologie nei vari passaggi dalla nostra produzione dei rifiuti fino al destino finale dei materiali di residui con il recupero di materiali ed energia. Ecco professore, adesso lei ne ha dato una descrizione del tutto generale, però adesso entriamo più nei dettagli. Quali sono i vari step all'interno di questo ciclo, o meglio, quali sono i passaggi che segue il rifiuto da quando viene creato a quando viene dismesso a quando viene recuperato? Dunque, le fasi principali sicuramente riguardano portato nel cassonetto oppure in un'isola ecologica oppure in un sistema di raccolta differenziata, che sono dei diversi tipi. Comunque il primo step è la raccolta dei rifiuti. Dalla raccolta dei rifiuti vengono trasportati e inviati alle varie fasi o di recupero per quanto riguarda, non so, le plastiche, il vetro, la carta, eccetera, quindi in una sezione ben definita, oppure vengono portate, se il rifiuto è indifferenziato, per cui sono tutte le merceologie presenti nel rifiuto, viene portato o presso l'inceneritore oppure, ahimè, presso la discarica. Quindi questa fase si chiama trattamento dei rifiuti, oppure anche per quello della raccolta e valorizzazione dei rifiuti. A questo punto noi abbiamo la fase del controllo ambientale del destino degli inquinanti che vengono prodotti, ma anche il destino del materiale dove collocare i residui che si possono ottenere. Professore, nella letteratura, ma anche un po' nella pratica, c'è un solo ciclo integrato o ce ne sono diversi con al loro interno alcune differenze, tra virgolette, sostanziali? No, il ciclo integrato dei rifiuti è il fatto che all'interno ci sono diverse distinzioni, come vi ho citato prima, quindi diversi sistemi di raccolta o di raccolta differenziato presso isole ecologiche, oppure della raccolta porta a porta, così, oppure anche nelle fasi di trattamento le diverse tecnologie di trattamento, di valorizzazione o anche di recupero. Quindi è un ciclo integrato dei rifiuti che fa capo ad una certa strategia presente sul territorio. Per esempio, se noi nel territorio di Bologna o nel territorio di Rimini oppure a livello provinciale c'è un sistema integrato di gestione dei rifiuti dedicato a quel particolare territorio. E allora, professor Morselli, a questo punto, dopo aver fatto un'introduzione del tutto generale, come è ovvio all'inizio, entriamo più nel dettaglio. All'interno del ciclo integrato dei rifiuti abbiamo vari tipi di rifiuti selezionati per quelle che vengono definite le classi merceologiche, la plastica per esempio, la carta, il vetro e altre classi. Come si gestiscono questi tipi di rifiuti in maniera separata? E poi, all'interno delle varie classi merceologiche, come si gestiscono i tipi di vetro, i vari tipi di plastica, eccetera? Certo, facciamo un esempio, dopo magari possiamo anche affinare con altri casi studio. Ecco, se prendiamo per esempio il ciclo di raccolta della plastica, no? Il ciclo di raccolta della plastica è un po' più problematico. Il ciclo di raccolta della plastica, quindi, quando noi mettiamo nel cassonetto dedicato alla plastica, allora voi potete mettere solo da una parte solo le bottiglie di polietilene, no? Oppure in altre attività, in altri cicli di gestione, possono mettere tutte le tipologie di plastiche. Prendiamo questa plastica del polietilene, allora questa viene raccolta, viene portata alle aziende del riciclo del polietilene e quindi vengono fatti delle pulite, emendate dalle impurezze e poi dopo nelle aziende che riciclano proprio questo materiale, da dove si possono ottenere dei prodotti o dei riprodotti da questo materiale. Quindi anche per esempio il pile per quanto riguarda dei test delle fibre, oppure altri imballaggi di bottiglie o altre tipologie di contenitore o altri anche oggetti. Per quanto riguarda invece il discorso della tipologia delle plastiche, qui diventa molto problematiche, per cui dopo la pulizia, dopo la frantumazione, noi possiamo separare diverse tipologie delle plastiche, e questo vanno in circuiti di tecnologie specifiche dedicate per ogni tipologia o classe di tipologie di classi merceologiche che sono affine, per ottenere dei riprodotti. Senta professore, invece per quanto riguarda il vetro, anche quello è qualcosa che gestiamo tutti i giorni, ma anche lì abbiamo il vetro bianco, il vetro verde. Come riusciamo a gestirli, vari tipi di vetro all'interno di questo ciclo integrato? Ecco, anche il vetro, allora, le bottiglie di vetro, questo fra l'altro è abbastanza facilitato come ciclo di trattamento del vetro, o anche ciclo di vita dei rifiuti di vetro, no? Quindi dalla raccolta del vetro, diciamo così, dà molto fastidio ad esempio che ci siano delle bottiglie con dentro dell'olio, perché per suo proprio destino va verso le vetrerie. E quindi naturalmente viene integrato nel ciclo della produzione delle bottiglie di vetro o altri oggetti di vetro, e l'olio in questo caso, no, può creare delle bolle all'interno delle bottiglie che non fanno vedere dal punto di vista dell'immagine un aspetto non troppo bello. E infatti questo, abbiamo diverse tipologie di vetro, quindi c'è il vetro bianco, c'è il vetro verde, c'è il vetro marrone, c'è il vetro scuro, quant'altro. Ecco, allora in alcuni casi c'è la separazione soprattutto all'estero, per diverse tipologie di vetro, quindi da quello bianco, da quello verde, da quello di altri colori, e questo hanno circuiti diversi, per cui dalla bottiglia bianca si fa il vetro bianco, dalla bottiglia verde si fa si ricicla per ottenere dei prodotti in vetro verde, e gli altri insieme. Se li mettiamo tutti insieme, allora avremo delle bottiglie di tipo scuro, ecco. Quindi effettivamente non cambia la composizione chimica, ma cambia solo l'apparenza del vetro. Esatto, e infatti quello che è molto importante è considerare, lei ha fatto presente questo aspetto della composizione chimica. Se noi abbiamo una sedia rotta che è di legno, no? Una sedia rotta che è di legno, che può diventare rifiuto se noi l'abbandoniamo, lo portiamo, diciamo così, per la raccolta dei rifiuti. È una sedia di legno nuova, intonsa. Dal punto di vista chimico-fisico è lo stesso materiale, e quindi questa è la grande capacità che noi possiamo avere nel recuperare materiali, perché naturalmente dal punto di vista chimico-fisico è lo stesso tipo, le stesse caratteristiche. Ecco, allora cos'è che può variare, e questo può essere anche da considerare per i cittadini, ma dai sistemi anche che raccolgono appunto i rifiuti, è che se la sedia io la metto con la plastica, con la frazione organica, con altri aspetti, allora la sedia di legno si sporca e quindi deve essere tutta ripulita, rimaneggiata per andare al riciclo del legno. Se invece la sedia rotta, naturalmente pulita, così intonsa, la raccogliamo come rifiuto da legno, avrà un percorso, diciamo, più diretto e naturalmente molto oneroso. Senta, fino ad ora abbiamo parlato di plastica, abbiamo parlato di vetro, e adesso ci manca l'aspetto più forse noto del riciclo, cioè la carta. Dunque la carta, cioè il destino, la tecnologia è la cartiera, no? La cartiera del coso. Allora la carta, noi la mettiamo assieme, la carta dei giornali, la carta del cartone, degli imballaggi, la carta delle riviste patinate. Anche in questo caso bisognerà fare, e spesso viene fatto, una cernita proprio dedicata ad un circuito diversificato, per cui la carta dai giornali avrà un certo percorso, la carta cartone invece un altro percorso, l'altra carta patinata, diciamo, un altro percorso. Però a volte viene fatto anche un riciclo della carta, diciamo così, nell'insieme. E quindi cosa viene fatto? La carta va a finire la cartiera e viene spappolata, e quindi per riottenere le fibre di carta che possono formare altra carta riciclata. cosa che risulta essere abbastanza, diciamo così, anche delicato sotto questo aspetto. Innanzitutto dobbiamo considerare che il ciclo, cioè i diversi cicli di recupero del riciclo della carta possono essere non più di 7. Se noi dovessimo fare, prendi sempre la stessa carta riciclata per 7, dopo l'ottava volta non sta più insieme, no? Ecco, quindi allora deve essere miscelata ad altre fibre vergini cosiddette, in modo ad avere un prodotto abbastanza pulito. L'altro aspetto è quello delle impurezze che ci sono nella raccolta della carta. Quelle delle impurezze magari ritorniamo dopo, perché è un grosso problema nella gestione e nel riciclo dei rifiuti. Ecco, allora nelle impurezze, allora deve essere tutta ripulita, e naturalmente in questo caso in modo da avere le fibre ben disponibili per essere trattate successivamente. L'altro aspetto è quello del colore, perché se noi mettiamo assieme le riviste, mettiamo assieme anche diversi altri materiali, ecco, allora c'è la possibilità, la necessità forse a volte di fare uno sbiancamento, ecco, allora di uso di prodotti chimici per rendere la carta riciclata anche per altre stampe successive, eccetera. Quindi questo è un aspetto di grande interesse. Lei ora, professore, ha citato il posto dove viene recapitata la carta, cioè quella che si chiama la cartiera. In realtà però verso la cartiera vengono portati anche dei contenitori multimateriale che comunemente vengono chiamati contenitori di Tetra Pak. Ecco, come si gestisce un materiale complesso come il Tetra Pak, che racchiude al suo interno ben 3 elementi e non uno solo? Ecco, è un materiale, è un imballaggio poliaccoppiato, no? Polietilene, alluminio e carta. Ecco, è molto interessante, proprio su questo noi abbiamo fatto uno studio assieme proprio alla Tetra Pak per verificare il tipo di riciclo del Tetra. Anzi, abbiamo fatto 2 ricerche industriali di questo tipo qui, fatto anche con dei test in una cartiera. Ah, non si sapeva ancora, lo mettiamo assieme alla carta, lo mettiamo assieme alla plastica o lo mettiamo assieme all'alluminio. Ecco, allora la quantità preponderante è sicuramente dovuta alla carta, alla plastica meno e ancora meno all'alluminio. Ecco, questi poliaccoppiato, diciamo così, può essere raccolto e dipende anche dal circuito poi di gestione del successivo dopo la raccolta. Può essere raccolto nella raccolta differenziata della carta oppure in altri materiali, lì è indicato nei cassonetti. Cosa succede? Come si potrebbe fare per separare i vari componenti della Tetra Pak? Io ho visitato anche un impianto, una cartiera in Spagna, dove naturalmente utilizzavo tutto il Tetra Pak. Basta portarlo ad una temperatura di 80-90 gradi, questo lo possiamo fare anche a casa, un contenitore di Tetra lo mettiamo in una pentola che si spappola tutta la carta, le fibre di carta, si ottiene la plastica raggrinzisce e quindi si separa e otteniamo il foglio di alluminio intonso. Da lì si può fare poi la separazione. In effetti, nelle cartiere dell'uso della carta può esserci fino al 2,5% di materiale in Tetra Pak. E questo è anche molto importante, perché le fibre del Tetra Pak sono fibre vergini e quindi va ad implementare la resistenza della carta quando viene costruita. Professor Morselli, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torneremo in studio e quando saremo tornati in studio cominceremo a parlare di quello che abbiamo chiamato l'anello debole del ciclo, e cioè l'incenerimento dei rifiuti non riciclabili. But I just can't guarantee. So much inside that still needs mending. I'm sick of playing fake emotions and believing they're true. I can't just see it's just a picture in every letter I receive from you. You're just another part of life causing distraction. If I get too close, you'll know there'll be a bad reaction. When the chemicals ignite, we do. We'll be heading for the so why have me thinks we belong? The other side just knows it's wrong. Electric lust is so depending. Truth is now my biggest fear. So I say what you want to hear. Will you ever know just how I'm feeling? I'm sick of playing fake emotions and believing they're true. And can't you see it's just a fiction in every letter I receive from you? You're just another part of life goes in distraction. If I get too close, you'll know that we have a bad reaction. When the chemicals ignite the globe, we'll be heading for disaster. And not enough for the growth, it seems the only answer. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui a Cacciafotone. Siamo raggiungibili in questo momento in streaming dal sito di Radio Città Fujiko, www.radiocittafujiko.it, e in podcasting dal nostro classico blog www.cacciafotone.it. In questa puntata siamo al telefono col professor Luciano Morselli, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso l'Università di Bologna. Con lui stiamo parlando di riciclaggio, ma soprattutto di quello che viene definito il ciclo integrato dei rifiuti. Professor Morselli, per quanto riguarda la parte finale del riciclaggio, o meglio quella parte non riciclabile che viene incenerita, com'è cambiata nel corso del tempo la tecnologia di quelli che erroneamente vengono chiamati i termovalorizzatori, ma che effettivamente si devono chiamare inceneritori? Ma negli ultimi anni quello che è l'evoluzione della gestione dei rifiuti è stata notevolissima, quindi allo stesso tempo abbiamo come riferimento tutto un elenco delle migliori tecnologie disponibili, le cosiddette BAT, che risulta essere un riferimento primo. In questo documento, in questi rapporti delle BAT, tra l'altro quello sulla gestione dei rifiuti delle migliori tecnologie disponibili, è un rapporto considerevole di 100 pagine, tanto per dire, dove vengono messe quali sono le tecnologie migliori, quelle mature, ma anche in prospettiva quelle che possono ulteriormente ottimizzare i processi di trattamento dei rifiuti. E vediamo che per esempio nell'ottenimento del compost più pulito, e quindi con meno metalli pesanti e quindi con più elementi agronomici di interesse, vediamo per quanto riguarda le discariche, per quelle discariche ci andranno solamente i materiali non putrescibili, quelli che producevano biogas e quant'altro, poi dopo le tecnologie di isolamento sono ottimali. Nel campo degli inceneritori, ebbene, si sono fatti dei passi molto in avanti, basti pensare per alcuni parametri di contaminazione da quelli del materiale particolato sospeso emesso, da quello esempio delle diossine, dei furani, eccetera, o anche altri parametri, abbiamo avuto negli ultimi 20 anni delle riduzioni anche per alcuni parametri pari a più del 90-95%. Per quanto riguarda invece le emissioni, cioè i fumi, i materiali che vengono emessi da un inceneritore, effettivamente come li possiamo calcolare? O meglio, come li possiamo analizzare e soprattutto che tipi di modelli di diffusione usiamo per il loro monitoraggio? Quando noi abbiamo un'emissione, ma non solo nel campo del trattamento dei rifiuti, degli impianti, ma anche per quanto riguarda un qualsiasi tipo di trattamento, che sia termico, delle centrali termoelettriche, ma anche nel nostro impianto di riscaldamento di condominio e quant'altro, abbiamo delle emissioni. Queste emissioni vengono emesse con una certa concentrazione, ma allo stesso tempo con una quantità di flussi determinati, milligrammi, grammi, chilogrammi e quant'altro per giorno, per mese, per anno. L'applicazione di modelli di diffusione e di ricaduta, ci fa vedere dove abbiamo i punti di maggiore ricaduta. In quei punti di maggiore ricaduta cosa abbiamo? Abbiamo gli abitanti, abbiamo le nostre culture, degli alimenti, abbiamo l'acqua e i corpi idrici superficiali. L'analisi di rischio va a calcolare appunto sulla base delle specie emesse, pericolose da qualsiasi tipologia di impianto e trattamento termico, vedere che tipo di effetto ha sulle piante, sugli organismi e sulla salute dell'uomo. E da lì, attraverso poi dei modelli che vengono calcolati in laboratorio dei dati, si vede che tipo di rischio c'è ai fini della salute, ma ai fini anche del tumore, dei tumori che possono essere possono insorgere, ecco, per 1 milione di abitanti, per 2 milioni di abitanti, eccetera, eccetera. E ci sono, diciamo così, anche delle tabelle date soprattutto dall'EPA, ma anche da altre normative europee e nazionali, dove al di sopra di questo valore possiamo avere un rischio conclamato. Senta, in questo modello di gestione dei rifiuti, che in gergo viene chiamato Integrated Waste Management System, si parla effettivamente di 3 o 4 passaggi: riutilizzare il materiale, riciclarlo e poi avere alla fine un processo del materiale nuovo. Quando però abbiamo dell'inquinamento, come facciamo a identificare quello che nei vostri lavori viene definito come contamination sources? Cioè, come facciamo a dire che l'inquinamento, quel tipo di inquinamento, deriva dall'inceneritore e non da un'altra parte? Ecco, molto, molto interessante. In effetti noi abbiamo in un territorio diverse tipologie di emissione, per cui noi possiamo avere anche vicino un'autostrada che è una fonte con un flusso di inquinanti molto elevati, no? E quindi, ecco, l'aspetto è questo, che per ogni tipologia di attività o produttivo, di servizio, o che noi possiamo avere, abbiamo delle emissioni ben caratteristiche, che, e questi sono caratterizzate appunto da indicatori ambientali, che sono delle specie chimiche che provengono, specie chimiche o anche di altro tipo, che provengono da queste fonti di emissione. Un esempio tipico sono i metalli pesanti, per cui se noi sappiamo da una fonte di contaminazione, per esempio da centrali termoelettriche, ad olio combustibile, che gli indicatori ambientali, oltre a composti organici, idrocarburi policiclici aromatici, ma che questi subiscono le variazioni nell'ambiente, ebbene nei punti di maggiore ricaduta riscontriamo questi nello stesso rapporto che provengono dalle emissioni, e allora possiamo, diciamo così, indicare che la fonte di contaminazione è proprio questo tipo di processo industriale. Senta professore, lo accennava prima, ma vorrei che lo precisasse meglio. Una volta che otteniamo i dati della presenza, per esempio, dei metalli pesanti, dobbiamo inserire questi dati all'interno dei modelli matematici, e i modelli poi in seguito ci danno una stima della loro pericolosità. La domanda quindi è: che tipo di modelli matematici vengono utilizzati e che tipo di criteri seguono? Dunque, sono dei modelli che tengono conto innanzitutto di tutti gli aspetti territoriali, no? Quindi naturalmente qual è l'orografia, qual è la dispersione del vento, qual è la tipologia delle fonti di emissione, e questi modelli dopo comprendono all'interno, quindi c'è tutto un aspetto geografico, no? Topografico, che noi possiamo considerare. Questi modelli dopo attraverso delle elaborazioni ci fanno vedere quali sono le mappe di ricaduta e in quale dimensione. Allo stesso tempo ci danno anche le concentrazioni di questi inquinanti che ricadono nei punti di maggiore caduta o nei punti di minore caduta. Ecco, questi aspetti, quindi abbiamo bisogno di una quantità di dati notevoli che provengono sicuramente dalla fonte e dalla caratterizzazione della fonte, dai modelli di dispersione e diffusione nell'ambiente, dalla climatologia e dalla tipologia del territorio sul quale questi vanno a incidere. In tutto questo, professore, come parametro fondamentale che ancora non abbiamo citato è il cosiddetto hazard quotient, che è letteralmente la somma dell'esposizione agli inquinanti stimata più il valore dell'ecotossicità. L'hazard quotient, traducendolo, è un parametro, almeno da quello che leggo dai vostri documenti, al di là del quale l'esposizione ad un qualcosa che di suo è già inquinante diventa altamente pericolosa. Ma quali sono realmente i parametri in ballo per poterlo calcolare? Beh, dipende, diciamo così, qual è. Innanzitutto sono delle probabilità. Delle probabilità, se noi andiamo a studiare la tossicologia o la tossicologia ambientale e andiamo a analizzare anche il rischio che noi possiamo avere per una stessa specie chimica che ha un'incidenza sul territorio, sul vegetale, sugli organismi, sull'uomo e quant'altro, ebbene questo va di pari passo con gli studi, le ricerche, l'affinamento che si ha in queste ricerche e anche nel perfezionamento dei modelli. Ebbene, allora, cos'è che noi possiamo vedere? Che naturalmente abbiamo un limite di sopra del quale c'è, allora qui c'è qualche problema, le probabilità che possono insorgere delle malattie o di altro tipo, anche eventualmente dei tumori, ecco, allora è più elevata quando abbiamo quella concentrazione così. Quella che di sotto, diciamo così, abbiamo delle probabilità molto molto più limitate, ma nel definire questi limiti vengono portati dei range di sicurezza, per cui se un limite per una certa concentrazione viene dato, cioè, che viene fuori dal modello, allora il limite lo spostiamo molto molto più basso, 10 volte, 100 volte o anche 1000 volte più basso, in modo da avere delle garanzie. E questo dipende anche queste diversificazioni di questi moltiplicatori, dipende anche sulla base degli effetti conclamati che noi abbiamo già potuto appurare attraverso dei casi studio. Ecco, allora per effetto, per il principio della precauzione, noi dobbiamo naturalmente limitare, diciamo così, di molto a quello che è il livello, quindi abbassarlo di molto. Senta, possiamo quindi dire che la parte debole di tutto il ciclo è la parte finale e quindi l'incenerimento dei rifiuti? La parte debole, guardi, la parte debole può essere considerato questo, anche perché vuol dire la direttiva europea cos'è che porta avanti? Porta avanti un dei target di raccolta differenziata e quindi di ricerca via via più elevati. Noi dovremmo raggiungere nel 2012-2013 valori del 50% di riciclo, quindi dei rifiuti urbani, 70% da costruzione e demolizione. Ma abbiamo dei target di riciclo, abbiamo dei target di raccolta differenziata che sono molto più alti, 70, anche 75, molte delle province dell'Emilia Romagna hanno dei target tra il 2011 e il 2012 al 65% come raccolta differenziata. Il riciclo, si sa che da quello che si raccoglie in modo differenziato, il riciclo per ottenere un prodotto è di 2/3, per cui l'altro è ancora un residuo che dovrà essere considerato. Qual è l'anello debole? Infatti l'anello debole è come la discarica, come l'inceneritore, ma anche quei sistemi di trattamento di riciclo che hanno un impatto ambientale. Ecco, secondo me questo è un aspetto molto importante e i criteri di validazione che hai citato prima ci dà un'idea di quanto un sistema può essere meno impattante di un altro, che un sistema può avere un effetto di analisi di rischio eccetera rispetto ad un altro. Senta, le faccio l'ultima domanda che conclude un po' questa trasmissione di Caccia Fotone. Lei come esperto ambientale è stato più volte contattato dalla politica per analisi tecniche, quindi come esperto ha chiaro quello che si può fare, ma come scienziato ha anche chiaro quello che si dovrebbe fare. È davvero tanta la differenza fra quello che si può fare e quello che in realtà si dovrebbe realmente fare? Molto molto interessante anche come conclusione, sicuramente. Ecco, io ho avuto molti incarichi, anche 4 anni ministro dell'ambiente negli anni fino agli anni 80-90, ma come esperto anche su tavoli tecnici europei, tutto quanto ho una grande esperienza a livello di ricerca applicata eccetera, ho avuto diversi progetti in questo campo qui. Qual è quello che si può fare adesso e quello che si dovrà fare? Sicuramente ce l'ho abbastanza chiaro. Quello che si può fare adesso nel sistema integrato di gestione dei rifiuti applicato a livello territoriale, dobbiamo considerare tutte le tecnologie disponibili per ottenere un impatto ambientale più limitato, per avere la possibilità di recupero di materiali ed energia il più possibile. Questo significa l'applicazione delle best available techniques, quindi naturalmente che sono ben schedulate. Ecco, quello che si deve fare adesso è proprio vedere un sistema integrato di gestione dei rifiuti ottimale. Dobbiamo ancora considerare queste fasi che vi ho detto, quindi dalla raccolta, raccolta differenziata, compostaggio, riciclo, eccetera, eccetera, e anche l'incenerimento con recupero di energia. Questo secondo la gerarchia dettata dalla prossima, dalla direttiva europea che sta per essere approvata. L'altro aspetto, infine, è quello che dovremmo fare, che dobbiamo fare con molta determinazione, è questo, che prima di tutto che ogni tipologia di bene di consumo che noi produciamo deve essere ideato, deve essere costruito, deve essere prodotto in modo che nel suo ciclo di vita, dalla produzione, dal trasporto, dall'uso, dal consumo, fino ad arrivare alla fase finale della dismissione, noi l'abbiamo già calcolato, e quando abbiamo questo ciclo, questo prodotto, ma soprattutto deve essere riciclabile e deve essere, diciamo così, riutilizzabile il più possibile a fine vita. Questo è una prima base. Nel frattempo dobbiamo cercare, attraverso i piani provinciali di gestione dei rifiuti, attraverso le linee di guida regionali, attraverso l'osservazione delle direttive, dobbiamo produrre meno rifiuti, quindi più prevenzione, dobbiamo recuperare il più possibile di riciclo, eccetera, eccetera, e avere alla fine meno impatti ambientali. Quindi questo che si doveva fare, ma sta diventando questo programma di ricerca industriale, eccetera, veramente enciclopedico per quanto riguarda gli aspetti, e con la collaborazione sicuramente da molti settori. Infatti io voglio dire, considero anche gli aspetti etici, quindi quello che è un percorso di comportamenti, di fare un comportamento virtuoso, e con la collaborazione di tutte le parti scientifiche coinvolte. Professor Mosselli, intanto la ringrazio per aver risposto alle nostre domande, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Mosselli.